Sono un buon padre di famiglia, mia figlia mi regala qualche conchiglia, non tocco già mai la bottiglia, non ho la pancia neanche una maniglia. Ma quando spunta il sole nel cielo, il sangue nelle vene mi congelo, salgo in ascensore e dentro un grattacielo, e al mondo intero sparo a bruciapelo. Sono un bravo uomo, non c'è che dire, aiuto gli amici a risalire. Se sono in crisi e stan per finire, o se un torto da non prevenire. Ma quando spunta il sole al mattino, mangio il pianeta come un panino, mangio il pollo ed anche il bovino, e tratto il cliente come un vino. Omo uomini lupus, ti schiaccio il muso nell'humus, ti prego tutto il conquibus, sta tanto più spine di un ficus. Omo uomini lupus, ti schiaccio il muso nell'humus, ti prego tutto il conquibus, sta tanto più spine di un ficus. Un cittadino, modello per tutti, del suo lavoro raccoglie i sani frutti, non discrimina fra belli e brutti, ha sempre sorrisi allegri ed asciutti. Ma quando spunta il sole rovente, punto deciso il vacuo acquirente, da me non ti salva nessun salvagente, per l'oscuro sire lavoro ubbidiente. Omo uomini lupus, ti schiaccio il muso nell'humus, ti frego tutto il conquibus, sta tanto più spine di un ficus. Omo uomini lupus, ti schiaccio il muso nell'humus, ti frego tutto il conquibus, sta tanto più spine di un ficus. Eseguivo solo gli ordini, devo portare il pane in casa, in fondo siamo tutti egoisti, ho un mutuo da pagare, ho dei figli da sfamare, ho un lavoro devo pur fare. Omo uomini lupus, ti schiaccio il muso nell'humus, ti frego tutto il conquibus, sta tanto più spine di un ficus. Omo uomini lupus, ti schiaccio il muso nell'humus, ti frego tutto il conquibus, sta tanto più spine di un ficus. E gnam!